Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Lestormore Rock. Mancano un paio di giorni a quella che per molti magari è la giornata più bella, quella in cui ci si può travestire e fare paura alla gente, quindi sto parlando semplicemente di Halloween. Quindi qui tra poco, tra qualche giorno ci sarà ci sarà appunto questa ricorrenza ormai che è da quello che è stata spopolata in America, è arrivata ovviamente da tantissimi anche qui in Europa e anche qui in Italia. Sono tantissime feste, quindi se qualcuno semplicemente volesse dire dove si troverà il 31 dicembre, se effettivamente poi andrà a fare qualcosa per questa giornata, può tranquillamente dirlo al 333 180 94 94. Ma questo è semplicemente un escamotage, una piccola introduzione per andare a ripetervi il numero, perché questa è domenica di intervista e qui c'è il ragazzo che è qui, che detta così non è delle migliori introduzioni, ma in realtà è un grande ritorno, non in versione band ma in versione singola, e quindi c'è Jack che qua si sta ascoltando, si è fatto una bella risata, ha appena detto il mio ragazzo, ovviamente in modo ironico, tanto per. Ma ciao Jack, ben ritrovato sulle Stormore Rock, come stai? Ciao, bene, io tutto a posto, te tutto bene? Oh bene, dai, non c'è male. E come dicevo, per Halloween tu farai qualcosa o... Oppure... No, guarda, sinceramente no, non faccio nulla ad Halloween, sono troppo vecchio per travestirmi. No, vabbè, non vado a bussare. Dolcetto e scherzetto, effettivamente è un po' sdoganato per noi, perché ovviamente io sono dell'84, tu adesso non mi ricordo che anno sei, ma sei... No, io sono del 97. 97, dai, vabbè, però bene o male, dai, volendo potresti essere ancora in auge per fare dolcetto e scherzetto. Mascherato però non sembra. Ci penserò. C'è stata, allora, perché io, dato che non ce lo ricordavamo entrambi, quindi te lo vado a richiedere, c'è la mia domanda introduttiva, che ovviamente, come ti dicevo, nessuno scappa, giusto per avere un report di quello di chi intervisto, per cosa pensa appunto di questa band. Sicuramente anche tu saprai che i NoFX sono sciolti ufficialmente quest'anno, quindi addio NoFX, non si vedranno più, non ci saranno più questi comizi in modo ironico che facevano dal live. E qualche concerto un po' scazzato, qualche concerto effettivamente fatto figo, la canzone che ci è sempre piaciuta, non ci saranno più tutte queste cose. Dato che non ce lo ricordavamo, perché come ti dicevo eri già qua con gli Stone One quando siete usciti con il vostro primo album, ti vado semplicemente a chiedere cosa sono per te NoFX. Poi se ci siamo ripetuti, pazienza. Sì, pazienza, tanto... Allora, i NoFX sicuramente sono una delle band che ho ascoltato di più. Anni fa li ho ascoltati veramente tantissimo, conosco tutto ormai da NoFX. Ultimamente non li ho un po' persi, dico la verità, non li ho più tanto ascoltati, però sono stati sicuramente importantissimi per me, per come io anche scrivo le canzoni. E purtroppo, esatto come dici te, io sono riuscito a vederli solo una volta a un Bay Fest, non mi ricordo neanche che anno. E sì, no, è stata una delle serate, no, probabilmente non è stato un gran concerto, però rimangono comunque sicuramente in top 5 per me. Ok, vabbè, quindi magari ci sarà, sarebbe stato bello magari anche se fossi riuscito a vederli anche tu più di una volta effettivamente, però dai, almeno il check della serie, almeno li ho visti una volta, ce l'hai, quindi dici sì. Almeno quello. No, va bene, giusto che così, come dicevo, nel caso ci fossimo, te l'avessi già fatta questa domanda, perché ovviamente chiedendola a tantissime persone, ovviamente qualcuno se viene richiamato ogni tanto scappa, però se magari vabbè, tanto vai. Tanto se non ce la ricordavamo né io né te, se la devo ricordare loro. Esatto, quindi alla fine direi che comunque non abbiamo fatto del male, comunque alla fine nessuno. Detto questo, ho fatto una piccola introduzione. Jack e Giacomo dei Stone One è qui per il suo debut EP in acustico, Reasons to Exist, che ci andremo a ascoltare i classici tre brani che mi ha mandato lui, a parlare effettivamente di questo suo progetto solista. o acustico solista, e andiamo effettivamente a parlare con Jack degli Still One in questa versione According to Jack. Una curiosità mia che ti vado a chiedere subitissimo sulla denominazione di come hai dato a questo tuo progetto, ma hai preso per caso spunto da According to Jim, la serie no, TV? La serie TV? Ma According to Jim sarebbe la vita secondo Jim? Esatto. No, non ho preso spunto, ma diciamo che aiuta a capire il perché, no? Perché tu mi hai detto According to Jim sarebbe come la vita secondo Jim, esatto. According to Jack le canzoni sono sempre, diciamo, mie visioni sulle cose, mie opinioni. Okay. È praticamente la vita secondo me, capito? Secondo Jack. Ok, figo. No, infatti immaginavo ovviamente, poi dopo magari ha preso spunto magari dalla serie TV e la girata a tuo favore ovviamente, però... Ci sta, eh. Non ci avevo neanche pensato. No, vedendo According to Jack, ricordandomi che la serie TV di La vita secondo Jim nella versione originale americana è According to Jim, ho detto magari ha preso spunto appunto da quello. Però comunque il riferimento è molto carino. Nel caso, anche se l'hai fatto involontariamente, il riferimento è molto carino comunque. Sai, figa, una serie figa, mi piace. Vedi, alla fine dai, ti ho tirato fuori una roba che magari non ci avevi fatto caso inizialmente, però... Quindi, esatto. Se non hai trovato ostacoli, nel senso, nessuno ti ha detto, ma sai, c'era già la serie TV, direi che puoi tranquillamente tenerti il nome senza dover cambiare. Esatto. Come fecero i Rhapsody, che dovettero chiamare cambiare il nome della band, i Rhapsody of Fire, perché Rhapsody non mi ricordo a cosa era riferito, o uno scrittore oppure effettivamente un'altra band, però parlando di metal e quant'altro. Però risolta questa mia piccola questione, andiamo effettivamente a parlare delle tue canzoni, di queste cinque canzoni. Inizialmente ho visto che effettivamente sono cinque, c'è già qualcosa a cui stai lavorando adesso come adesso, oppure ti godi queste cose? Allora, sì, diciamo che alla fine io sto sempre lavorando. In questo periodo probabilmente c'è talmente tanta roba che non è ora il momento per dirlo, purtroppo. Okay. Però sì, sono sempre facendo, ci sono sempre robe in cantiere, sempre belle robe, speriamo, quindi aspettatevi qualcosa, prima o poi. Ok, no, va bene. Una According to Jack, adesso ormai te l'ho detto, quindi fuori in automatico, però According to Jack è la versione, per chi non lo sapesse, la versione acustica di Giacomo, che è il cantante degli Still No One, e quindi si differenzia un po' come Joy Cape, un po' come Tony Sly, no? Che avendo lo Use for Name, Le Guengon da esatto. Una parte, hanno fatto il loro progetto. Quindi anche una domanda che mi sorge spontanea, un po'... appunto riferimento a questi grandi nomi, come mai hai scelto di fare qualcosa di tuo piuttosto che magari un tuo sentimento o una tua idea, trasportarla su un testo degli Still No One? Aspetta, scusa, non ho capito bene la domanda. Mi hai chiesto perché ho scelto di fare qualcosa di mio oltre agli Still No One, o esatto. È un'altra domanda? No, esatto, qualcosa di tuo oltre agli Still No One. Beh, perché diciamo canzoni io ne ho sempre scritte tante, veramente qualcosa che faccio continuamente, quindi alcune di queste non vanno bene per gli Still No One, però io comunque volevo portarle in giro, volevo farle sentire, e questa è una parte del motivo. L'altra parte del motivo è perché mi sono sempre chiesto come sarebbe stato fare un progetto in cui sono da solo, salgo su un palco da solo, io e chitarra acustica. Mi interessava sapere insomma com'era, e per fortuna, perché è bello, okay, posso quindi, dirvi. Quindi ti trovi bene ad essere effettivamente solo su un palco magari grande come quella volta che ti ho visto con in apertura e Descendants al Bayfest, e ti trovi da solo con questo palco grande. Sì, beh, in verità lì non ero... in verità non ero neanche da solo lì, perché c'era comunque l'altro, l'altro chitarrista degli Steno One a darmi una mano. Era in duetto effettivamente, per avere un suono magari un po' più un po' più ampio, però sì, dici, comunque io mi sento a mio agio nonostante sia da solo o magari in, in coppia con qualcuno. Sì, sì, sì, e poi beh, è bello scoprire la musica acustica, mi ha, non avevo mai provato, una volta che ho provato mi ha preso molto bene. No, no, bene, bene, mi fa piacere, perché alla fine sono piccole evoluzioni che ogni tanto possono capitare, che possa essere anche come, come il tuo caso, dici vabbè, io ci sono dei brani che vorrei fare, la band purtroppo, facendo hardcore melodico, skate punk, chiamiamolo un po' come ci pare, non rispecchia quello che effettivamente voglio fare io, dici sai cosa, senza fare né torto a nessuno, io mi faccio le mie canzoni in acustico e siamo tutti a posto così, senza nessun... senza nessun sì, problema. Sì, anche perché sì, non, se fossero state canzoni di Stinova, beh, alcune, come anche i ragazzi di Stinova mi hanno detto, guarda che alcune cazzo avrebbero funzionato anche, anche in stile skate punk, è vero. Okay. Altre non, cioè, non sono neanche proponibili. E rientriamo sempre con Jack di According to Jack, according to Jack, appunto con il suo progetto solista. E rientrando, come si diceva un attimo, magari c'era qualche brano che effettivamente parlando con gli altri membri della band degli Steel No One poteva essere ripreso un attimo anche in, in versione Steel No One, appunto, quindi magari solitamente capita al contrario, no? C'è una, la band fa il brano e poi va la, fa la versione acustica. In sì. Questo caso potrebbe capitare il contrario, prima la versione acustica e poi magari arriverà la versione elettrica con la band. Beh, madonna, sai che roba, starebbe. Ci sta, dai, alla fine, bene o male, col fatto che mi dicevi, bene o male, nel fuori onda, che c'era qualche brano che i ragazzi della band ti avevano detto, guarda, che poteva starci anche come, come band, magari riproporlo in versione elettrica, così tipo tre o quattro brani ce li avete già, volendo. sì, non so, ci penseremo, vediamo se i ragazzi vogliono. Esatto, esatto. Quindi piccola parentesi da quello che è il tuo progetto solista, dato che ci siamo, ti chiedo un attimo anche per quanto riguarda gli Steel No One, che come ti dicevo un attimo è da un paio di mesi che non vedo date degli Steel No One oppure singolo, quindi vuoi dire un attimo tu com'è la situazione della band prima di continuare? Sì, sì, sì, guarda, come giustamente dici, siamo un attimo, non dico scomparsi, ma ci siamo un attimo fermati per dare priorità alla scrittura di nuovi pezzi, cosa che sta procedendo e non so quando, ma nel prossimo futuro sicuramente qualcosa verrà fuori e torneremo sicuramente a suonare. Già abbiamo cose in pentola per dicembre e per il futuro, quindi sicuramente sentirete parlare di noi. Ok, ok, quindi seguite gli Steel No One se volete qualche informazione tramite i loro social, Facebook, Instagram e quant'altro, che per essere più aggiornati. Intanto c'è Pingles che saluta e manda i cuoricini, magari è un amico tuo, non lo so. Certo, certo ragazzi, Error 404, andatevi a sentire anche loro che hanno un singolo fuori. Ok, oh, benissimo, benissimo. Quindi come dicevo, se qualcuno volesse scrivere al 333-180-94-94 per un semplice saluto, oppure come qualcuno sta facendo su Instagram, perché è un pelo più diretto, può tranquillamente farlo. E tornando al a quello che è il tuo EP, c'è qualcosa ovviamente di personale, ovviamente, perché c'è qualcosa, come dicevi tu, dici sono cose mie che voglio tirare fuori. Sì, esattamente. E poi sai, una cosa che a me non piace mai spiegare il significato delle canzoni, no? Ok. Perché mi sembra come quando spieghi una barzelletta, che poi quando te la senti spiegare non fa più ridere, capito? Ok. Cioè, è bello, secondo me la musica è anche bella perché ognuno ci può trovare del suo dentro, senza per forza dover... che gli venga spiegato, diciamo. No, certo, ci sta. Alla fine ci sono certi frasi magari in un testo che dici ok, questa mi appartiene, me la sento anch'io, magari però tutto il resto del testo, del lyrics e quello che possa essere non rispecchia tanto, però capisco effettivamente, quindi non ti vado a chiedere cosa volevi dire in questa canzone, però magari al massimo te lo chiedo in privato, giusto per curiosità mia, se c'è qualche dubbio che mi è venuto. Intanto, vabbè, sì, cioè, nel senso, se uno mi fa una domanda io rispondo, non ho segreti. Sì, no, beh, figurati. Infatti, saluto anche Friday Punk Danilo, che si chiama come me, quindi ciao bello, che sei collegato anche lui. E quindi, vabbè, allora a sto punto, brevemente, il brano, no, anzi, scusami, il titolo che hai dato all'EP, Reason to Exist, va a racchiudere un po' tutto quello che hai voluto dire con questi 5 brani? Sì e no, diciamo, perché non ci ho mai pensato in realtà. Ok. Se ci devo andare a pensare, sicuramente c'è un collegamento, però era semplicemente, l'ho chiamato così perché la canzone Reason to Exist è quella che per me significa di più. Sì, diciamo che è, come dice la title track, è un po' il concetto generale dell'EP. Ok. Va benissimo. Che tra l'altro è la mia canzone, diciamo, preferita, perché al contrario delle altre è stata scritta veramente moltissimo tempo fa, quasi 10 anni fa, e non l'avevo mai usata. Urca, quindi allora, piccolo passo indietro, da quant'è che hai iniziato, anche strimpellando per fatti tuoi, il discorso dell'acustico? Allora, beh, sicuramente questa cosa coincide col periodo in cui ho imparato a suonare la chitarra, e non ho imparato presto, avevo 15 anni. Ok. E io appena ho imparato a suonare, mi sono messo subito a scrivere, in realtà. Ok. Canzoni proprio. E quindi si parla di quegli anni là, praticamente, superiori. Ok, dai, figo, quindi poi le riesumate e magari risistemate un pochino qualcosa e buttate fuori. Ah, ok. Sì, beh, no, è l'unica che ho riesumato, perché era l'unica che era in qualche modo decente, perché le altre, insomma. Dice, vabbè, ok, piano piano. No, vabbè. Le altre sono venute fuori molto dopo. Sì. Ok, no, vabbè, dai, bello, interessante. Quindi ti sei buttato subito sul... su qualcosa di tuo già da subito, piuttosto che fare qualcosa di scoppiazzato. Va bene, ci sta. Seconda parte di Le Stormo Rock, sono sempre qui collegato con Giacomo degli Steel No One, a parlare appunto del suo progetto solista acustico. Un'altra curiosità, sempre mia, comunque, giusto per snocciolare quello che è effettivamente un attimo il tuo progetto, questo omino, questo pupazzetto che ti accompagna praticamente da quando hai iniziato questo progetto acustico, che è andato a finire nella copertina, che come è saltato fuori questo pupazzetto, questa statuina? Questo pupazzetto non è che abbia una storia, penso semplicemente di averlo visto un giorno su Amazon e mi è subito venuto il flash che doveva in qualche modo essere parte della cosa. Cioè, l'abbiamo tatuato, l'abbiamo vestito, l'abbiamo fatto del male in qualsiasi modo, però ancora un giorno lo venderò all'asta. Fantastico, tipo questo è l'originale, non è una copia, è veramente... Sì, no. Effettivamente è quello vero originale, ok. No, vabbè, ci sta. Era una curiosità anche questa che mi chiedevo, da chissà come salta fuori, anche perché poi è nel ironicamente c'è la tua immagine, c'è la tua foto dove ti gratti la testa con un braccio, o effettivamente con tutto il pupazzetto da qualche parte. Mi sembra, sì, no, vero, il braccio, sì. No, ok. Non so, probabilmente, sai, che ho fatto il liceo artistico, forse ne ho visti talmente tanti che mi è rimasto in testa, non lo so. Tipo mascotte, diciamo, per modo di dire. Sì. Piuttosto che piazzare il tuo faccione davanti, dici, vabbè, mascheriamo davanti con un pupazzino, giusto così, tanto per... No, va bene, dai, carino. E, ovviamente, come tantissimi altri chiedo, ovviamente lo chiedo anche a te, ne avevamo un attimo parlato, quindi ne riparliamo un attimo brevemente, delle date che hai o avrai da qui a fine anno, comunque magari se c'è qualcosa che puoi già dire, non almeno il mese più o meno, comunque nel caso. Sì, allora prossimi mesi sono abbastanza pieni di date, ce ne sono due a novembre, ce n'è una a Rovigo, una ad Abano Terme, e c'è tutto su Instagram, come dicevamo prima, a volte me lo vado a vedere anch'io perché non mi ricordo le mie date, quindi fate come me, andate a vedere su Instagram le date di Accordi to Jack. Ok, ok, bello, bello, bello, carino, carino. E quindi tu alla fine hai momentaneamente, non hai fatto maglietto che altro, hai fatto giustamente solo un attimo il sampler, il CD da poter dare in giro per chi lo volesse. Sì, sì, sì, esatto. Poi qua i fondi non ce ne sono, abbiamo fatto solo CD. Guarda, hai fatto bene. Infatti te l'ho preso perché mi faceva piacere avere il CD, quindi comunque grazie. Sono no, figurati, sempre un piacere. Parlando ovviamente sempre del un po' dei testi, c'è sempre questa una domanda che faccio sempre o comunque molto spesso a chi canta sia in italiano che in inglese, da italiano appunto, sì. Tutti i brani in inglese, quindi ci sarà prima o poi, ci penserai un qualcosa in italiano oppure continuerai sempre con un discorso di inglese perché a livello melodico suona meglio con quello che hai da proporre appunto di melodie o di testo? Beh, penso che ormai talmente abituato in inglese mi farebbe strano scrivere in italiano, però sarebbe anche divertente. Ah. Qualche band che canta in italiano mi chiami per il featuring e canterò in italiano. Attenzione! Così sarebbe divertente, così lo farei. Ok, perché qui c'è un'apertura. Solitamente quando vado a chiedere questa domanda a band X, che chiedo, ma state cantando in inglese e magari prima o poi canterete in italiano, che altro? Il 90%, se non dire, per non dire quasi il 100%, dicono no, ormai abbiamo iniziato in inglese perché magari si punta magari appunto a un discorso anche all'estero, quindi dici, mi mantengo sempre il discorso inglese che così sono anche più internazionale. E invece qui c'è un'apertura che, come dicevo, raramente capita, quindi... se chi ci sta ascoltando oppure chi vedrà la diretta più in ritardo o ascolterà il podcast, se vuole fare un featuring con Jack, scrivetegli pure tranquillamente sui suoi social. Poi vi dico i prezzi non tutti se lo possono permettere, però. vediamo come andrà a finire. E riprendiamo sempre la seconda parte con Jack degli Still No One, ma in questa versione con il suo progetto acustico According to Jack, uscito con il suo primo EP Reason to Exist. Parlavamo prima appunto di discorso lingua non lingua, featuring non featuring, ma se effettivamente qualche band italiana che canta in italiano ti dicesse, oh, sai cosa, lo facciamo veramente sta roba, chi ti piacerebbe che si proponesse... ormai allora, cioè, ti dico la verità, io le grandi band del punk rock italiano io non le ho mai tanto ascoltate, quindi io non ti farò quei nomi. Ok. Non sarei magari, cioè, lo farei più magari con band di nostri amici, cioè okay. Magari gente con cui abbiamo fatto concerti. Ok. Band che io ho visto, con cui ho avuto a che fare magari. Ok. Cioè, che sono amici. Ok, una cosa un pelo più intima. No, va bene. Dai, ci sta. E invece per quanto riguarda uno split, che anche questa è una cosa che bene o male può vagamente funzionare, c'è qualcuno che dice... Wow, va, allora uno split va con me in acustico, io non so, non ci ho mai pensato, ditemelo voi. Però anche con gli Still No One, però glielo dico sempre, che mi piacerebbe un sacco fare uno split con gli Slabber. Ah, ok. Quindi ci sta. Così, se dobbiamo parlarne per conversazione, io ti direi gli Slabber. Ok. Ci sta, dai. Alla fine sono ben di amici, comunque conosciute, che si è diviso magari diverse volte il palco. Si va a creare un attimo quella... come si dice? Quell'amicizia, quel feeling che dici, sai cosa, ci sta anche fare qualcosa insieme. Giustissimo. Ovviamente anche per loro, poi se ci scrivono gli diamo i prezzi e tutto. No, certo, ovviamente gratis no. No, gratis non se ne parla, quindi ognuno c'ha al suo prezzario in modo rigoroso senza stare a a fare, in questo caso, dare prezzi, però magari se ne parla un attimo nel se ne parla nel privato. E quindi dicevamo, se qualcuno volesse andare a seguire l'acustico di According to Jack, appunto, in qualche data, se il suo profilo Instagram, dove sicuramente è aggiornato con le date che avrà da qui a fine anno. Oltre a magari a qualche fattore personale, c'è anche qualche fattore esterno che ti può portare a fare qualche testo, per dire un ingiustizie, oppure che purtroppo in questo ultimamente, guardando il telegiornale, ce ne sono veramente tantissime, quindi magari vedere un tuo punto di vista anche da quel lato lì, oppure è un discorso effettivamente solo personale e lo porti avanti un attimo così e basta? Allora, ti dico la verità, io non sono uno che scrive di eventi della storia moderna, attuale, non sono uno che scrive di politica. Per me, personalmente, preferisco che stia fuori dalla musica. Okay. Se tu mi dici, posso parlare di ingiustizie magari, ma sono magari le mie ingiustizie personali della vita che vivo. Ok. O cose del genere, è tutto sempre legato alla mia visione delle cose, alla mia vita personale. Ok. Mai eventi generali o... Ok. Ma quindi a questo punto una domanda di riflesso, nel senso, chi invece è band come i tempi, Anti-Flag, appunto, oppure anche in NoFX, bene o male, che parlavano tanto di attualità alle volte, di ingiustizie, di quant'altro, e in quel caso lì è una cosa che si accetta comunque? La mia band preferita di tutti i tempi sono i Bad Religion, quindi diciamo che loro chiaramente riescono a parlarne senza essere mai banali. Certo. Io non penso di poterlo fare. Ok. No, ci sta. È giusto per essere chiaro, dici, ok, la band è troppo estremamente politicizzata. Può essere bella quanto ti pare, ma alla fine non rientra comunque anche nei miei ascolti, anche per quanto riguarda un testo. Giustissimo, però. Quindi invece, esatto, cioè, se una canzone è fatta bene, un testo è fatto bene, non è banale, c'è qualcosa effettivamente da dire, io ascolto qualsiasi cosa. Ok. Va bene. Ultima decina di minuti più o meno per a fine di Let's Talk More Rock. Sono sempre qui collegato con Jack de Still One, ma in questo caso versione According to Jack. Quindi, mentre intanto cerco di ricordarmi magari qualche altra domanda che mi ero segnato qua dentro, e purtroppo non su un fogliettino come spesso faccio, ti vado a chiedere un attimo la mia in anticipo la mia domanda scarica barile, che probabilmente ti avevo già fatto la volta scorsa, ma quindi mi aspetto nel caso una risposta leggermente diversa, quindi sei vagamente avvantaggiato rispetto a tanti altri, perché si ritrovano davanti a questa domanda scarica barile di fronte così all'ultimo senza sapere cosa poter dire. Quindi, se ti ricordi che stavo chiesto infine a fine degli Steam One, potresti già pensare, quindi ti sto parlando a vuoto, ti sto cercando di farti ricordare, non te lo ricordo, quindi te lo vado a chiedere semplicemente e basta. La mia domanda scarica barili, rinominata così perché effettivamente è vero, c'è qualcosa che non ti ho chiesto in questa ora che tu vorresti dire, che possa riguardare band o che altro? Guarda, di particolare ti dico anche no, ma vi spoilero, tra virgolette, che sì, posso dirvi, aspettatevi comunque annunci, aspettatevi cose nuove a breve, che sì, sto facendo una marea di roba, ragazzi, quindi fra poco ce ne usciamo con qualcosina, probabilmente. Ok, ma questo riferito con l'acustico o con il discorso band? Questo riferito all'acustico e anche band, come ho già detto prima, stiamo lavorando pure là, quindi anche lì viene fuori roba sicuramente prima o dopo. Ok, no, va bene, mi fa piacere, quindi che ci sia, non lasciato nulla sul caso, e ci sia sempre qualcosa da dover dire. Mi fa piacere perché magari certe volte c'è qualcuno che magari si va un attimo a bloccare, si va a infossare, a cercare di provare a tirare fuori qualcosa di nuovo, ma nel provare a tirare fare qualcosa di nuovo si blocca e non tira fuori niente. Quindi avere sempre nuove idee, sempre qualcosa di spunto da poter appunto fare, da poter scrivere, da poter suonare è positivo. Quindi certo. bravo anche anche in questo senso, senza doverti tirare fuori troppe paranoie magari per quanto riguarda un certo giro, una certa melodia, un certo pezzo di testo. Quindi superare anche questo piccolo ostacolo, per modo dire, che può capitare, no? Sì, sì, beh, ma guardate, state tranquilli che le idee non mancano mai tra noi, anzi, forse pure troppe. Bene, bene, quindi ci aspettiamo tante cose per quanto riguarda sia gli Still No One che appunto un altro EP o comunque qualcosa di According to Jack, che immagino tu stia già lavorando. E quindi, come ti dicevo, sono praticamente arrivato in dirittura d'arrivo, quindi vado un attimo anche ai saluti, che così ho modo anche di andare a mettere l'ultimo brano che mi hai mandato, che è Carry the Burden. Quindi grazie della disponibilità, perché ci eravamo sentiti qualche tempo fa. Guarda, come ti dicevo, mi fa piacere, mi dispiace aver allungato un attimo da quando effettivamente è riuscito con le tue EP, però sai, avendo diverse cose da dover programmare, progettare, ogni tanto arrivo un attimo lungo, quindi vabbè, ma comunque non c'è problema, figurati. Infatti no, però mi fa piacere bene o male riuscire a cercare di rimediare un attimo con tutti. Quindi, come ti dicevo, di nuovo grazie, spero di vederti nuovamente in acustico oppure appunto con gli Still No One, che tra parentesi non ho ancora visto con gli Still No One, perché momentaneamente siete un attimo fermi, quindi spero di vedervi. Mai visti dal vivo neanche una volta? No, gli Still No One no. Ho visto, male questo. Sì, ti ho visto due volte con col tuo acustico, però mai con gli Still No One, quindi si dovrà recuperare. Vedrai che fra poco si recupera, fra un po' belle news anche con gli Still No One. No, va bene, quindi ci risentiremo anche con questo, perché mi sembra aver capito che ci bolle in pentola anche qualcosa per quello, quindi ci risentiremo bene o male un po' per tutto. Come ti dicevo, grazie della disponibilità di aver passato questa oretta qui con me, sentiamo e ci vediamo per la prossima, e ti saluto. Ciao Jack. Certo, grazie mille, ciao a tutti, alla prossima. A conclusione, come di consueto, buon punk rock a tutti. Ciao!